Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Di Rosita Celentano e Angelo Vaira. Bonjour a tout le monde. Bonjour a tout le monde. Senti, chiedimi se sono felice. Sei felice? Moltissimo. Perché? Perché oggi è San Francesco. Oggi è San Francesco, giornata mondiale dei diritti degli animali. Oggi Fantastico. La nostra trasmissione capita proprio a fagiolo, la trasmissione radio più importante d'Italia. Esatto, del mondo. Del mondo. Anzi, e poi voglio dire, vedi, tutto torna. Abbiamo un papa che io amo follemente, che è questo Papa Francesco, che non a caso ha deciso di chiamarsi Francesco. Come San Francesco, è un gesuita, quindi i gesuiti sono, insomma, molto, a me piace molto la mentalità dei gesuiti. Allora, volevo fare un attimo un riassunto della puntata scorsa, perché certo. Noi abbiamo accennato a questo articolo di Focus che si intitola Scommetti che ti convinco, perché non sempre basta aver ragione per convincere l'altro, anche se portiamo, bravissima. Anche se portiamo dei dati specifici. Allora, ma soprattutto è controproducente usare la forza, no? Dicevamo che uno si irrigidisce ancora di più. Assolutamente, questo non andrebbe mai fatto. Vaira mi insegna, no? Mi insegna. Metodi gentili. Io non insegno a nessuno, tantomeno a lei. Guardi, se mi insegna qualcosa mi fa solo con favore. Comunque, la settimana scorsa abbiamo scoperto da questo articolo che ci sono 10 suggerimenti, no? Per far sì che l'altro, esatto, sia più aperto a cambiare idea. Esattamente. Scienza, anche la scienza in questo caso. Allora, il primo suggerimento della volta scorsa era legato al fatto di ascoltare. Tra l'altro, quindi, a proposito di cane, dicevamo un cane che non ascolta è un cane che non è ascoltato. Quindi l'ascolto è il primo. Ah, vedi, anche Focus ce lo dice, è il primo. Che vale anche per i bambini. Vale per tutti. Vale anche quando fra le relazioni fra uomo e donna, donna donna, uomo uomo, perché sempre relazioni sono, vale fra fratelli, fra amici, vale sul lavoro, sempre. Quindi la prima cosa è ascoltare l'altro, quindi per farsi ascoltare bisogna prima di tutto ascoltare l'altro. E il secondo consiglio è un modo per ascoltare meglio. Con le buone si ottiene tutto, e con le buone si ottiene tutto, con le buone si ottiene tutto, devi tenerlo sempre in testa, questo è il trucco. Devi tenerlo sempre in testa, questo è il trucco. Difatti, allora, il secondo consiglio, secondo Focus, è sincronizzarsi. Uh-huh. Può essere utile assumere una postura lui o a lei speculare, imitarne i gesti, senza esagerare ovviamente, e le espressioni. Serve entrare in sintonia, sarebbe come dire sono simile a te. Quindi il linguaggio non è solo il linguaggio importante, le parole e le espressioni sono anche importanti. Bisogna evitare invece di atteggiarsi a professori, perché aumenta le distanze. Sì. Se fate saputelli, la battaglia è persa in partenza. Eh sì, perché se uno vuole, è sempre il discorso di forzare l'altro, no? Tra l'altro, sui cani, uh-huh, avevo intervistato tempo fa Marco Iacoboni, che è un luminare dei neuroni specchio, no? Questa intervista si trova su YouTube, tra l'altro, se volete ascoltarla, dura una decina di minuti, è molto interessante, perché i neuroni specchio sono appunto la prova scientifica cerebrale, sì, del fatto che questa sincronia funziona. Cioè, lui ha rintracciato nella storia diversi passi che vanno, non so, da Dorian Gray, no? Dorian Gray di Oscar Wilde? Oscar Wilde, ah, no? Perché in Dorian Gray viene detto: se tu vuoi capire le intenzioni di un altro, assumi la sua espressione facciale. E lui, Marco Iacoboni, ha rintracciato, visto che lui è appunto il suo lavoro, appunto, è stata questa roba di Ron Speck, ha scritto questo libro per Bollati e Boringhieri, è andato a rintracciare nella letteratura tanti altri che avevano avuto questa intuizione. Se tu ti sincronizzi, diventi simile all'altro, lo comprendi meglio. Quindi qui la cosa principale da capire è che questa non è una tecnica per poter fingere di, ti fa diventare l'altro. Peraltro, deve essere spontanea ovviamente questa cosa qui, magari uno le prime volte ci fa un pochino più di attenzione. Ma sai, è esattamente come quando uno impara a parlare, no? Le prime volte tu provi dei nuovi fonemi quando sei bambino, eccetera, eccetera, quindi ti devi sforzare, come quando impari una nuova lingua, all'inizio ti sforzi, sì, certo. Poi però diventa naturale, non è che devi stare lì troppo a pensare, diventi più empatico perché senti quello che sente l'altro, e probabilmente in questo caso l'altro sente che tu sei benevolo a entrare in connessione con lui. E questo funziona anche col cane, perché gli animali tra loro fanno la stessa cosa. Ma per farti un esempio, no? Mettiamo di essere in stazione, che tu stai per perdere il treno. Vai da quello di biglietteria e gli dici: ascolti, sto per perdere il treno, mi fa un biglietto? Sì. E quello lì, con tutta la calma del mondo, comincia a digitare sulla sua tastiera. Mi fa incazzare perché mi fa perdere il treno. Tu gli dici: forse non ci sei anche capito, sto per perdere il treno, devi fare in fretta. Sì. Quanto tempo ci vuole per fare sto biglietto? Si sbrighi, lui si abbassa gli occhiali, ti guarda e dice: ci vuole il tempo che ci vuole, no? E quindi è lento, però alla fine ti dà il biglietto, non ha fatto nessun errore, tu vai lì, prendi il treno, ce la fai a prendere il treno, ma che cosa ti ricordi di lui? E che a momenti me lo fa perdere. Eh sì, che poi ti sta un po' sulle palle, no? Sta roba qua. Invece se tu vai in biglietteria e trovi uno che dice: ah oddio scusi, no, va bene adesso l'aiuto, no? E quindi si mette lì e digita sulla tastiera, dice: no aspetti che ho sbagliato a digitare, devo tornare un attimo indietro, fa cadere i biglietti per terra, ti dà il biglietto, perdi il treno. Ma che cosa ti ricordi di quella persona? Che ha fatto di tutto per farmelo prendere. Questo è sincronia. Sì. Diventi l'altro, capito? Sì, no, questo per farti capire. Non è che uno bravo, sei bravo, vai. Sono bravo, ho studiato. Hai studiato, se ti sei preparato stanotte? Dov'è? Sempre, sono sempre preparato io. E state parati. E donc, quindi, scriveteci comunque se siete d'accordo, per esempio, con la sincronizzazione. A chiedimi se sono felice, @radio24.it. No, sì, poi tra l'altro ricordiamo, non siamo sui social, no? Tu sei sì. No, io ragazzi, continuo a ricordarlo perché spesso la gente continua a chiederci, mi manda i messaggi, ma dove siete? Ah, fra l'altro, sul sito di radio24.it potete trovare tutti i podcast delle puntate precedenti che vi siete persi. Mi sembra una cosa importante. Pensa, tornando a questa cosa del neurone specchio, c'è Mark Bakoff, che è uno che studia gli animali, che lui dice: quando studio i coyote, io divento un coyote. Un po', però mi stai facendo, è vero, mi stai facendo venire in mente che, per esempio, la recitazione, la scuola americana di recitazione dice che tu, per diventare un bravo attore, non devi fingere di devi fare la parte drammatica piuttosto che cose. No, devi essere in quel momento, cioè la devi rivivere esattamente. Quindi ti obbliga a tornare in una situazione del passato dove hai vissuto quel tipo di emozione lì. Ma allora ti faccio una domanda per vedere se hai capito. Quindi, col cane, che cosa fai in pratica per sincronizzare? Devo essere un cane. Sì, questo è vero. Quando uno si interroga, per esempio, sui bisogni del cane, che cosa ha bisogno il mio cane? No? Quando uno tratta il cane come un bambino. Guarda, ti faccio un esempio veloce. Quando il mio chihuahua marca in casa e dovevo cercare dove aveva marcato, perché poi non è che lo trovi casualmente, mi mettevo a quattro zampe e cercavo di pensare a essere molto piccola e a dire: se adesso io girassi per casa come fosse lui, dov'è che andrei a marcare la casa? Ah, Celentano, lo sa che va risolta questa cosa qua, ci vuovo. L'abbiamo risolta, amore. Ah, ecco. Senti un po', quanto manca? Quanto abbiamo ancora? 3 minuti? Ah, 30 secondi, quindi niente, dobbiamo... Però una cosa, fammela dire, sì, per favore, questa roba qua. Allora, se uno ha un cane, quello che, per esempio, io ho visto delle signore che si avvicinano al cane allungando la mano e col cane che si allontana, no? Sì. Si allontana, no? Allora, in quel caso lì, vale la pena fermarsi e lasciare che sia il cane ad avvicinarsi a noi, per esempio. Questo è un ricalco di tempi, ci si sincronizza sui tempi del cane. Comunque, continuate ad ascoltarci perché vi spiegheremo meglio come ci si fa a sincronizzare con un cane. A tra poco! Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Rieccoci. Quindi, giornata mondiale dei diritti degli animali, giornata dedicata a San Francesco. E quindi ci siamo chiesti, ma qui ci vuole una persona veramente che incarni oggi questi insegnamenti che ci ha lasciato San Francesco. Abbiamo con noi padre Guidalberto Bormolini. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Ciao. Che ricordiamo, tra l'altro, lui l'avevamo già citato per il suo libro I Santi e gli Animali, no? E pensa che dopo quella citazione ci siamo conosciuti, è stato il nostro punto d'incontro, no? La citazione che abbiamo fatto del tuo libro. Esattamente. Vedi, e siccome nulla capita per caso... Ma senti, quindi tu che cosa ne pensi di questa cosa, no? La giornata mondiale dei diritti degli animali, perché i diritti agli animali? Cioè, un padre cristiano, no? Che rapporto ha con gli animali? Che rapporto c'è tra chiesa e animali? Ma intanto evidentemente ogni vivente ha dei diritti, ma leggendo anche l'enciclica di Papa Francesco recente possiamo dire ogni creatura, esatto, anche quelle non viventi, hanno dei diritti e vanno tutelati. E questo in nome del fatto che siamo tutti i viventi e tutte le creature fanno parte di un unico disegno cosmico, sì. Allora, nella Chiesa antica c'era l'idea che l'essere umano è un microcosmo che ha in sé tutto il macrocosmo, per cui se entra in relazione con la sua vita intima, entra in relazione con tutto il cosmo. e soprattutto con gli animali che sono i più prossimi alla sua sensibilità. Ma perché, scusa, prego. No, dicevo che poi a me viene in mente, no? Mi sorprendo quando invece non si tiene in considerazione tutto ciò che è stato creato, perché se no non avrebbe senso, per esempio, la storia di Noè, l'arca di Noè. Si salva una coppia per ogni specie di animale, cioè quello era... tutti i semi che potevano poi essere richiamati. Esatto, e quindi voglio dire, quello è un grandissimo significato, cioè oggi mi fa specie chi si sorprende, fa delle distinzioni, il paradiso è per gli esseri umani, gli animali va bene anche no, chi se ne importa, no? Allora, c'è stato proprio un po' un cambiamento in tempi recenti, diciamo, rispetto alla grande storia della cristianità, per cui dal 1600 in poi, però in tutti i primi secoli della cristianità l'amore per la natura era pienamente contemplato, però bello. Nei tempi recenti ci si è dimenticati, per cui capita di parlare con qualcuno che ha una preparazione superficiale in questa materia, anche fosse qualcuno che ha studiato teologia, e non sa che sia nei padri della Chiesa che in tutta l'esperienza dei santi il rapporto d'amore con tutta la creazione è universale, non è solo di San Francesco. Forse hanno voluto farcelo dimenticare per poter giustificare, per esempio, la produzione di carne, allevamenti intensivi, come quando hanno cercato di dirci: ma gli animali non provano emozioni e dolori come noi. Cioè, c'è anche, secondo me, una voglia di allontanare l'uomo un po' da quella che è l'anima, no? La parte spirituale, forse. Sì, questa è la teoria di alcuni che dopo il 1600, il famoso Cartesio, a cui si attribuiscono magari più colpe di quelle che aveva. Sì, lui è stato un pensatore veramente geniale in certe cose, però il suo pensiero è stato interpretato in questo senso, che al di là dell'essere umano tutto quello che c'è poteva essere a sua disposizione per la sua crescita, per cui sia tutta la natura inanimata che gli esseri, tutti gli altri esseri viventi. Lui era il dominatore dell'universo e poteva fare quello che voleva. Sì, esatto. Invece... ma l'interpretazione falsa dei versetti della Genesi post-cartesiana non apparteneva alla Chiesa di 16 secoli. E invece che cosa appartiene? Possiamo affermare che appartenga alla Chiesa, quindi patrimonio della cristianità, sì. Del cristiano. Sì, sì. Della cristianità e anche della cattolicità, cioè più che la teologia, la cristianità è vissuta come un'esperienza, per cui è la testimonianza dei santi che ci dice cos'è cristiano, non un libro di teologia. Wow, bello. È universale l'amore per tutta la creazione nelle vite dei santi. L'ho dimostrato in questo studio, che è stato un po' una novità, perché nessuno aveva affrontato questo tema dal punto di vista teologico cattolico, rapporto santi animali. Sì, e non è solo, allora, questo non toglie nulla a Francesco, anzi, che io sono innamoratissimo di San Francesco, però di solito si dice all'esterno della Chiesa, la Chiesa non ha amore per gli animali, l'unico esempio è Francesco, invece non è vero, è universale dalle origini ai giorni nostri. Ma anche perché sarebbe contraddittorio con la parola di Gesù Cristo, no? Cioè Gesù ha parlato veramente di amore, di confronto nelle differenze, non ha mai emarginato niente, nessuno, cioè a me veramente mi rattrista vedere qualche cristiano o qualcuno che in nome di Dio, in nome di Gesù, fa delle classifiche, no? Certo, ma c'è Basilio Magno, che è uno dei più grandi dottori e padri della Chiesa, gli è attribuita questa preghiera in cui dice proprio: accresci, oh Dio, in noi il senso di fraternità con tutti gli esseri viventi, wow. Con i nostri piccoli fratelli a cui tu hai concesso di soggiornare con noi su questa terra. Bellissimo. E la cosa ancora più bella di Basilio: facci comprendere che essi non vivono soltanto per noi, ma anche per se stessi e per te, cioè per Dio. Facci capire che si amano al par nostro la dolcezza della vita e si sentono meglio al loro posto di quanto noi ci possiamo sentire al nostro. Certo. Ho una domanda. Quali benefici apportano gli animali alla nostra crescita spirituale? È fondamentale il rapporto con tutta la creazione. Questa è sia una mia posizione personale, sia una mia esperienza personale, che la testimonianza della grande tradizione ecclesiale. Per tante ragioni. Intanto, come abbiamo detto prima, l'uomo è un microcosmo, la natura è presente in noi, si diventa esseri completi solo se ci colleghiamo a tutti gli esseri. Poi questa è una posizione sostenuta anche da alcuni padri e da alcuni teologi contemporanei. Sì. Se siamo un microcosmo, se Cristo si è incarnato nell'uomo, uh-huh, attraverso l'incarnazione nell'essere umano, si è incarnato in tutto il cosmo. Quindi è presente in tutti i viventi e in tutte le creature, anche quelle inanimate. Ma infatti quando tu dici l'uomo è un microcosmo, questo vuol dire che se uno si ascolta, cioè ha una crescita interna, si riferisce a se stesso, in realtà fa esperienza di quello che c'è fuori anche di lui, di tutto il cosmo. Cioè io leggevo nel tuo libro tipo se uno, gli animali rappresenterebbero a volte le passioni, mi spieghi meglio questa cosa qua? In pratica tutto ciò che c'è nel cosmo è rappresentato in noi. Gli occhi sono il sole e la luna, la barba e i capelli, il mondo vegetale, le ossa, il mondo minerale, descrivono una cosa simile. Per cui un percorso interiore richiede di penetrare i segreti della natura, o anche l'inverso, attraverso l'innamoramento per la natura si risveglia l'attenzione a un percorso interiore per gradini. Certo. Senti, io sono affascinata molto dalla vita che fai tu, la vogliamo raccontare anche a chi ci sta ascoltando, qual è la tua missione, oltre al fatto che sta per uscire un tuo nuovo libro a breve, no? Sì, ho curato insieme a altri, è un libro sul vegetarianesimo nella vita cristiana. Uh-huh. Comunque mi occupo, allora, sono monaco, vivo in una comunità in campagna dove lavoriamo la terra, facciamo agricoltura naturale, biologica e siamo vegetariani, viviamo con molta semplicità. C'è un gruppo di monaci tutti vegetariani? Sì, sì, tutta la nostra comunità, siamo un centinaio di monaci in tutta Italia e tutti vegetariani. E cerchiamo di vivere preghiera, armonia con la natura, armonia con gli altri e proporre la meditazione cristiana a chi è lontano dalla Chiesa. Vedi, perché esiste anche la meditazione cristiana e nessuno lo sa, in pochi lo sanno, no? Nessuno se ne parla così poco, perché? Sì, ma perché è stata una pratica dimenticata, siamo diventati troppo tecnologici, troppo solo legati alla mente e alla ragione anche nella cristianità occidentale, va riscoperto il segreto del cuore. Bene, guarda, allora io e Angelo ci siamo ripromessi di venirti a trovare al più presto. Se tu passi da Milano ci chiami, così ci vediamo, e a me farebbe piacere magari più in là fare un'altra chiacchiera ancora. Assolutamente, adesso quando esce il nuovo libro. Io lì devo fargli delle domande, come vegetarianesimo e cristianità. Assolutamente. Scherzi, voglio saperne di più, voglio saperne di più. Senti, grazie mille della disponibilità. Grazie Padre Guidalberto. Grazie a voi per tutto. Buona grazie giornata. Mille. Anche a voi. Ciao, grazie. Ciao. Pensa a te che roba, no? Quindi vegetarianismo e cristianità lo voglio assolutamente. E poi meditazione cristiana, bisogna ritornare a parlare di meditazione cristiana. Meditazione anche. Insomma, abbiamo capito che visto che gli animali hanno una importanza così grande, maltrattarli, lasciarli alla catena, lasciarli in giardino, eccetera, eccetera, non va bene, no? No, quindi, assolutamente. Anche per il corretto cristiano. Riappropriamoci della vita corretta e sana dell'anima. E ci vediamo fra poco. A dopo. Scienza delle donne per cambiare il pianeta è il tema della 16ª edizione di Donna, Economia e Potere, il seminario internazionale della Fondazione Bellisario. 20 relatrici provenienti da tutto il mondo e 300 tra imprenditrici, manager e professioniste si confronteranno a Milano venerdì 2 ottobre alle 15 presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo e sabato 3 ottobre alle 10 in Expo Padiglione Italia. Non perdere l'appuntamento con la leadership femminile. Per accreditarsi, info@fondazionebellisario.org. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Buongiorno, allora Baciacca, buongiorno, e da mo che buongiorno. Abbiamo ricevuto diverse mail e volevamo leggere oggi una mail che a noi ha colpito particolarmente. Sì, perché sai, è facile, no, che noi intervistiamo delle persone normalmente che la pensano più o meno come noi, però siccome ci piace il contraddittorio, vogliamo dare spazio ad un ascoltatore che ha detto: qua state facendo delle cose che non vanno. Vediamo, sentiamo un po' che cosa ci dice. Bene, quindi leggiamo mail. Tutta la sua mail. Buonasera, sono un ascoltatore di Radio 24 che apprezzo per i suoi programmi. Stamani in auto verso le 5 ascoltavo uno spezzone della vostra trasmissione in cui avevate come ospite la signora Marisa Laurito, che parla di cani come se fossero esseri umani. Vi siete scagliati contro animali nei circhi, corride e soprattutto caccia, giungendo addirittura ad affermare che sareste contenti se ad un cacciatore capitasse un incidente durante l'esercizio della sua attività. Godere delle possibili disgrazie altrui non solo è scorretto, ma ha anche un non so che di perversione criminale. Scadete nel talebanismo di opinione, non tenendo conto delle sfumature delle cose. Da cacciatore, rispettoso delle vigenti leggi che regolano questa antica e tuttora lecita, vi assicuro che di caccia non capite proprio nulla e informate male i vostri ascoltatori con affermazioni banali e luoghi comuni triti e ritriti. È ora di finirla di massacrare una categoria di persone che vive e rispetta i ritmi della natura come pochi altri. Informatevi prima di parlare. Anche di cani, che spesso trattate come oggetti di arredamento sottomessi alle psicosi di padroni che riversano sull'animale le loro frustrazioni personali. Il mondo Disney non esiste. L'uomo è un predatore, il migliore, e si è evoluto cacciando e mangiando carne. Siamo quello che siamo perché abbiamo alle spalle centinaia di migliaia di anni di questa storia, che le mode del momento non riusciranno a cambiare. Concludo invitandovi a rispettare le opinioni altrui, mentre giustamente esprimete la vostra. Grazie, Alessandro. Allora, io sono contentissima di aver ricevuto questa mail, perché ci dà l'opportunità appunto di parlarne assieme. Allora... Assolutamente, grazie Alessandro. Innanzitutto noi la sua opinione la rispettiamo, ci sono però delle precisazioni che vanno fatte, insomma, certo, da questo perché ci sono di... un po' di luoghi comuni che non corrispondono sì. proprio a verità. No. Lui per esempio a un certo punto dice, la Marisa Laurito parla di cani come fossero esseri umani, è un suo modo di parlare, però non dobbiamo dimenticare che con gli animali abbiamo delle differenze sacrosante, non soltanto... cioè per me non sono qualcosa di brutto, è qualcosa che va rispettato. Esatto. Cioè, quante volte abbiamo detto il cane non va trattato come un bambino, certo. ha dei suoi diritti e dei suoi bisogni che sono diversi dagli esseri umani, certo. bisogna rispettarli, e qui ci sono delle differenze, ma ci sono anche delle somiglianze. Tra l'altro, se mi permetti, per esempio nel libro di Mark Bekoff, Giustizia selvaggia, per farti capire quanto siamo simili, ci sono degli aneddoti. Per esempio, 11 elefanti salvano un gruppo di antilopi tenute in cattività. La matriarca apre tutti i chiavistelli dei cancelli del recinto, permettendo agli antilopi di fuggire. Oppure un ratto in gabbia si rifiuta di premere una leva per avere una ricompensa, quando vede che a causa di ciò un altro ratto riceve una scossa elettrica. Appunto, oppure vogliamo parlare... di un gruppo nello zoo di Arnhem in Olanda, alcuni individui di scimpanzé puniscono quelli che arrivano tardi per la cena, visto che nessuno mangia se non sono tutti presenti. Sì, ma abbiamo anche filmati di ippopotami che salvano delle gazzelle da dei coccodrilli in un fiume. Quindi, ce ne sono migliaia. Gli animali esibiscono comportamenti morali che possono Molto. Essere compassionevoli, empatici, altruisti, giusti. Gli animali hanno un'intelligenza morale, quindi ecco qui che c'è una somiglianza con gli esseri umani. Allora, non è giusto dire che I cani e gli animali sono esseri umani, però hanno delle somiglianze così forti che uno non può chiedersi, ma allora andare a caccia e sparare per sport a un animale è giusto o no? No, perché, visto che quello ha dei sentimenti. No, perché visto che lui dice che non bisogna godere, noi non godiamo delle disgrazie altrui, però voglio dire, chiama la nostra una perversione criminale, ma invece lo sport, chiamarlo poi sport, andare esatto. a caccia, non cioè, allora lui si riferisce a quello che diceva Marisa. Io sono certo. contenta, dice lei, se questi si sparano a vicenda. Perché uno è così, come si dice, indignato dal fatto che tu fai soffrire un animale, che dice ma sparatevi tra di voi, certo. no? Ora, il punto è che se lui dice, quindi non si può godere delle disgrazie altrui, ma scusami, ma il cacciatore non gode di una disgrazia? Esatto. Cioè, per quell'animale... Si sente forte di averlo preso e ammazzato. Per quell'animale la battuta di caccia, sentire i cacciatori nel bosco, gli spari ed essere ferito, addirittura ucciso, è una disgrazia. È proprio questo il punto, non è una perversione. Sì, certo, che okay. parte da lì. Secondo punto, il rispettoso delle leggi, ma qui non c'è, cioè, la legge spesso e volentieri è... Beh, una volta era lecito anche avere gli schiavi. Una volta era lecito anche, come si dice, era lecito fare le orge, ci sono stati periodi dove era lecite delle cose, ora non sono più lecite. Beh, cioè, forse è lecito anche oggi, devo Beh, oddio, dire. Non lo so. No, il punto è, per abolire la schiavitù ci sono voluti 400 certo. anni, e questi sono gli stessi ragionamenti che all'epoca si facevano, dice ma no, ma la schiavitù c'è sempre esistita, ma perché cosa vuoi cambiare? E ci sono voluti 400 anni. Il fatto che se oggi sia lecito cacciare non significa che sia legittimo, non significa che sia una cosa giusta. Certo. L'altra cosa da sottolineare è, allora, l'uomo è un predatore e si è evoluto cacciando e mangiando carne. Non è proprio così. Assolutamente no. Oggi sappiamo che questo mito del cacciatore raccoglitore, oggi sappiamo che molti anni fa ci si cibava di carne cacciata solo per un 15%. Esatto. Il 85% dell'alimentazione dell'uomo primitivo, se così vogliamo chiamarlo, era costituito da radici, bacche, erbe, anche frutta. Anche perché sfatiamo il fatto che ci dicono che noi siamo onnivori, cioè che possiamo mangiare sia carne che siamo sia vegetariani che carnivori. Non è vero, perché noi abbiamo sia la mandibola che l'intestino che non è assolutamente carnivoro. Ecco, siamo frugivori. Non possiamo dire che siamo frugivori. Diciamo che tecnicamente noi possiamo avere degli indizi dell'anatomia comparata. No? Okay. Quindi se tu prendi l'intestino di un cane, visto che questa è una trasmissione prevalentemente dedicata ai cani, è corto. È lungo soltanto 3 metri, quello dell'essere umano è lungo 12 metri. Questo che cosa vuol dire? La carne ha bisogno di essere subito smaltita, espulsa, perché altrimenti va in putrefazione e ti fa male, ed è per questo che poi si dice insieme alla carne devi mangiare un sacco di fibre, un sacco di verdure. L'apparato di masticazione. Certo. Non abbiamo i canini degli onnivori, l'orso è un onnivoro, ma i canini di un onnivoro sono enormi. L'onnivoro non ha la mandibola come la nostra che puoi muovere a destra e a sinistra con i molari che servono proprio a molare i semi, no? A tritare, no? Noi abbiamo la mandibola che è simile a quella degli erbivori, quindi è questa insieme ad altre cose, non abbiamo gli artigli e via dicendo. Esatto. Quindi fa di noi soprattutto un organismo che è in grado di prendere e mangiare e nutrirsi di verdure, frutta. Bene, detto questo, abbiamo, credo, spero, accontentato il nostro ascoltatore Alessandro, che ha detto di informarci prima di parlare. Noi in realtà eravamo abbastanza piuttosto già informati, sì. E siamo contenti attraverso la sua mail di aver avuto l'opportunità di informare anche chi ci sta ascoltando. Anche il motivo. Ricordiamo di nuovo la mail per chi volesse continuare a chiacchierare con noi: è chiedimi se sono felice, @radio24.it. Angelo ride perché dico sempre la mail di casa mia. Praticamente. No, tra l'altro, poi ricordiamo chi si fosse collegato in questo momento: sì. C'è il nostro podcast. Cioè, se uno va sul sito di Radio 24, certo, come per tutte le trasmissioni, a ritroso può trovare tutte le altre puntate, no? E riascoltarsi anche questa, commentare, certo, sul sito della radio, trovarci su Facebook, sui social e via dicendo. Ma ora volevamo parlare appunto di un altro articolo, cambiamo argomento, passiamo a Como, ladri in casa, c'è poco da rubare così picchiano selvaggiamente i cani. Ecco, entrano i ladri in casa, non trovano nulla e picchiano i cani, e questa è una notizia già, insomma, questi ladri sono già poco etici di suo, poi picchiano si commentano anche da soli. Sì, questo solleva un problema, cioè vogliamo dare qualche consiglio a casa per quanto riguarda i cani da guardia, no? Perché spesso mi chiedono, Angelo, ma insomma io non so, ho degli allievi educatori, no? C'è questa squalcinofila, recentemente mi è capitata Laura Bordignon, che ne approfitto per salutare, un'educatrice cinofila, dice: senti Angelo, ma sto lavorando con un cliente che è fissato col fatto che deve avere il cane da guardia, sì, tu hai più esperienza, cosa mi racconti da questo punto di vista, no? E allora io gli ho detto un po' di cose, no? Uno, il cane in giardino, perché uno dice prendo il cane, lo metto in giardino. Sì, quando non vedo l'ora di avere il giardino. Sì, a parte quello, no? Che uno pensa che il cane stia meglio in giardino, non è vero. Uh-huh. Il cane in giardino è facilissimamente preda di... Sì, di... cioè il ladro lo elimina molto facilmente. Con le polpette avvelenate? In tutti i modi. Ti faccio un esempio. Sì. Allora, il mio cliente è andato in vacanza, torna e dice: guarda che Room, l'abbiamo trovato assolutamente in Room, il cane, il suo, tra l'altro è un pastore belga. Sì. E l'abbiamo trovato intontito, l'hanno intontito, avvelenato, drogato, narcotizzato, qualcosa, non sapevano neanche bene come. Come avevano la certezza di questa cosa? Nelle due ville adiacenti alla sua, sì, un pastore maremmano è stato strangolato, cioè lui si è avvicinato alla ringhiera, l'hanno strangolato, e l'altro invece è stato sparato. Oh Madonna. Quindi insomma il cane in giardino si elimina molto facilmente, no? Non è funzionale ad allontanare i ladri. Sì, magari quello che sta passando di lì per caso, che sì, magari un curioso piuttosto, sì, però non è efficace. Mentre il cane dentro casa diventa già un'altra cosa, perché al primo armeggiare davanti alla porta, se tu sei in casa, ti allarma, abbaia, via dicendo, certo, quindi tu riesci a difendere il cane te stesso molto più efficacemente, no? Mm-hmm. Poi qualche parola anche sulla razza, no? Perché molti dicono che razza prendo e via dicendo. Mi ricordo, io ho lavorato per molto tempo in un allevamento di cani corso. Mi ricordo una signora che diceva, veniva a fargli fare le vaccinazioni lì, che c'era il veterinario, diceva: oh, ma i miei cani sono dei patatoni, ormai sono passati 2-3 anni ormai. Cioè, signora, non si preoccupi, perché quando ci sarà bisogno vedrà che i suoi cani faranno il loro esatto. È tornata l'anno successivo a fare le vaccinazioni e ci ha fatto i complimenti. Ha fatto i complimenti all'allevatore. Perché che cosa è successo? Questa qui a un certo punto ha visto i cani che si erano scagliati sulla vetrata della loro villa, della villa, no, di casa, stando dentro casa, e lei non capiva che cosa stesse succedendo, quindi ha osservato più attentamente, ha visto una figura umana che si gettava dal tetto, no, scendeva e scappava, perché ormai i cani si erano accorti di questa cosa qua. Quindi non è necessario addestrare il cane, è molto meglio prendere una razza adeguata, una razza che istintivamente ti fa da cane guardiano, e non toccare, cioè non star lì troppo a dire, perché ti spiego uno degli come il mio chihuahua come il tuo chihuahua il chihuahua da guardia ti difende, no, sì, per esempio, perché ti dico che le pratiche che alcuni utilizzano per far diventare un cane diffidente da protezione, eccetera, una delle più blande, chiami il cane e dici: cucciolino, vieni qua, quando il cucciolone viene da te ad annusarti, gli strofini del tabacco sul naso. Oddio, e perché? È perché così questo si infastidisce e capisce che non tutti sono ben intenzionati. Vabbè, ho capito, però se glielo faccio io poi non ha più che ha un rapporto deviato con me. E non lo fai tu proprietario, non lo devi far fare da là. Oppure altra tecnica che viene utilizzata: tu te ne vai in giro col tuo cagnolo, un figurante, cioè una persona messa lì apposta, chiama il cane e dice: ciao, vieni qua, e lo punge con uno spillo sul naso. Beh, con queste pillole del cacchio, queste supposte di saggezza, sono rimasta abbastanza flashata. Non si fa. Bene, adesso qualche consiglio e poi si ritorna qui a chiacchierare. Ciao, dopo. Recupera. Ha vinto. Straordinaria impresa di Mennea. Ferma Scirea, Bergomi, Gentile, è finito, campioni del mondo. L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia si trova il santuario di Zeus, perché grazie all'esistenza di questo santuario sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Sono Dario Ricci, vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, con i suoi miti, le sue verità, i suoi segreti. Ogni domenica alle 20:30, qui su Radio 24. Gran Moravia e burro delle Alpi di Brazzale. Fidati di chi conosci da 200 anni. Vi presenta... Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Rende proprio l'idea, Eh sì, siamo stati in sync perfetto. Uno dei cartoni animati preferiti di mia figlia, come di tantissimi bambini. Ricordiamo, Peppa Pig è un'antropomorfizzazione. Strana, Peppa Pig, però. È un po' strana. Sono tutti personaggi che diventano degli esseri umani. In realtà, vogliamo dire, i maiali non sono esseri umani, ma provano sentimenti anche loro. Esatto, è felice ascoltato. Un maiale? Allora, se viene mangiato, no. Sappiamo che il prossimo weekend a Milano viene organizzato il Vegan Festival, di cui abbiamo qui l'organizzatore Claudio Pomo. Ciao a tutti. Ciao Claudio, buongiorno. Quindi il weekend prossimo, il 10 e l'11, c'è il MiVeg. Sì, MiVeg, all'Idroscalo. Festival Vegan all'Idroscalo, sì. Benissimo, senti, come vi è venuta questa idea? Cioè, perché questa impellenza, questa urgenza? Ma sicuramente per noi che siamo vegani, siamo tre associazioni formate da persone che da anni si occupano dell'argomento dello sfruttamento degli animali, per noi è un'impellenza comunicare alle persone cos'è realmente questa scelta di alimentazione etica che non comporti sofferenza per gli animali e che è anche più amica dell'ambiente e fa bene alla salute. Quindi e fa bene alla salute. Quanto tempo è che tu sei vegano? Com'è che è scattata la voglia, il bisogno di diventare vegetariano o vegano? Ma guarda, io sono diventato vegetariano 23 anni fa e poi vegano solo 3-4 anni dopo, quindi 19 anni fa, quando si parlava molto poco di scelta vegan in Italia. Uh-huh. E questa scelta è nata in me scoprendo una realtà che non avevo mai visto fino a quel momento, che era quella degli allevamenti intensivi, dei macelli, certo. E quindi conoscere da dove veniva davvero quel cibo, certo, animale di cui mi nutrivo. Da quel momento ho iniziato a farmi delle domande e ho capito che non volevo più essere parte di quello che io con le mie mani non avrei mai avuto il coraggio di fare. È esattamente la stessa cosa successa a me poco più di 2 anni fa, quando ho deciso di diventare vegetariana. Quindi poi dopo io contemporaneamente, dopo poco tempo, ho scoperto anche che c'è tutto un aspetto salutare legato a quello che si mangia, quindi non solo voler essere di beneficio a tutti gli esseri, quindi non far del male agli animali, ma anche curarmi e stare in buona salute. E tra l'altro Claudio è uno dei, cioè è un espressione vivente di questo, cioè da oltre 20 anni vegetariano, gli ultimi 4, esatto, vegano, e gode di perfetta salute. Certo, per fortuna sì. Per fortuna no, sì. Sarà anche probabilmente anche grazie a questa scelta che ho avuto anche dei miglioramenti anch'io, ho visto da quando ho adottato una scelta vegetariana e poi vegana, su alcuni piccoli problemi che avevo ho avuto dei miglioramenti. Te pensa che c'è la mamma di mia figlia che aveva carenze di ferro, no? Tutta la vita i medici a dire devi mangiare una fettina di carne ogni giorno per questa roba qua. A un certo punto lei ha visto un banchettino dell'OIPA, è diventata vegetariana un anno dopo che doveva nascere la nostra figlia, si è fatta le analisi del sangue, per la prima volta nella sua vita erano perfetti. Ma certo, ma di fatti sono pienamente d'accordo. Ascolta, diamo un po' di dati positivi, perché la gente, almeno così, anche chi non è vegetariano o vegano, capisce, no? Che cosa, che impatto ha infatti, reale, cioè, su... Io quello che mi sto chiedendo è, sono uno che sta pensando per etica di diventare vegano o vegetariano, ma che differenza vuoi che faccia io da solo? Invece? Che cosa mi dite da questo punto di vista? La differenza invece la facciamo, ovviamente è come si dice, sono le gocce che formano il mare, quindi unendoci tutti facciamo una differenza enorme, ma anche il singolo individuo è stimato con delle cifre ovviamente che non possono essere, diciamo, sono più o meno simboliche, perché comunque varia la dieta da individuo a individuo e anche da nazione a nazione, ma si calcola circa 400 animali l'anno che vengono salvati da una singola persona che decide di non alimentarsi con carne e prodotti derivanti dagli animali, quindi uova e latte. Qui stiamo parlando solamente dell'Italia, giusto? Sì, approssimativamente. Perché ovviamente ognuno mangia diversamente e ci sono animali più piccoli che vengono uccisi in maggior numero, eccetera. Certo, e poi esclusi i pesci. Si diceva, se uno prende una frittura di pesce già nel piatto si trova. Sì, in questi numeri non sono esclusi i pesci. Esatto. I pesci purtroppo tra tutti gli animali sono i più bistrattati, si pensa che non soffrano, ma esatto, in realtà ci sono studi scientifici che hanno provato pienamente la sofferenza dei pesci, e i pesci non vengono nemmeno contati come numero, come individui, ma vengono contati a peso, in tonnellate. Quindi è proprio una spersonalizzazione incredibile di questi animali. Senti, invece di dati reali dagli Stati Uniti, tu mi hai detto che c'è una statistica fantastica. C'è, diciamo, un calo costante di consumo di carne e quindi anche di uccisione di animali. L'ultimo dato, diciamo, fornito dal Ministero dell'Agricoltura è che rispetto a 7 anni fa, l'anno scorso, il numero di animali uccisi è stato 400 milioni in meno. Beh, 400 milioni. Fantastico. Scusami, 400 milioni solo negli Stati Uniti? Solo negli Stati Uniti, okay. C'è stato un calo di numeri così. Ovviamente il numero di animali ancora macellati ogni anno è incredibilmente alto, purtroppo. Ma questo è un segnale positivo che deriva non solo dalle persone che fanno una scelta pienamente vegana e vegetariana, ma anche dalle persone che iniziano a prendere coscienza e magari dimezzano il proprio consumo di carne, poi arrivano a ridurlo sempre più e quindi contribuiscono tutte queste comunque ad un risultato positivo. Bene. Senti. Claudio, Rosita, siamo tutti e due appassionati, che sì, vogliamo chiedere mille cose. No, volevo sapere un po' come funziona il festival, il MiVeg. Allora, per chi volesse venire, che cos'è che proponete, come è organizzato, insomma? Ma il festival parte dal sabato mattina e finisce la domenica sera, quindi 2 giornate piene di conferenze, workshop pratici, quindi vuol dire anche si impara a cucinare, si impara ad autoprodursi dal pane e altre cose, quindi c'è un momento anche culinario e conferenze di approfondimento sia pratico che teorico sull'idea dei diritti animali, e poi si trovano decine e decine di stand, di associazioni e non solo, di aziende che hanno fatto una scelta etica e promuovono solamente prodotti senza alcuna sofferenza degli animali, e in tutto questo contornato da ottimo cibo, gustoso. Al bar si troveranno dei fantastici dolci vegan, per invito tutti gli scettici a venire a provarli, perché comunque non si nota assolutamente la differenza, e quindi si può anche sfatare un mito che non mangiando prodotti animali, certo, magari si hanno delle mancanze. Invece sappiamo, venite che... a provare, perché vale veramente la pena. Grazie. Senti, Claudio, grazie Pomo. Claudio, allora ci vediamo tutti in Milano il 10 e l'11 ottobre al MiVeg, al Milano Veg Festival. Ciao, buona giornata. Ciao Claudio, grazie a te. E noi ci vediamo. Quindi siamo in chiusura. Sì, ricordo la mail: chiedimi se sono felice, chiocciola radio24.it. Madonna, e vi aspettiamo. E chiudiamo con una bella citazione di Pitagora. Pitagora, famoso matematico e filosofo, ebbe a dire: amici miei, ci sono campi di frumento, mele così abbondanti da piegare i rami degli alberi, uva che riempie le vigne, erbe gustose e verdure da cuocere. C'è il latte e il miele odoroso di timo. La terra offre una grande quantità di ricchezze che non provoca spargimento di sangue né morte. Il biografo Diogene scrive che Pitagora era solito mangiare pane e miele al mattino e verdura cruda la sera, e pagava i pescatori perché ributtassero in mare i pesci appena presi.